Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Qualche numero su cui riflettere. Per esempio il Milan, che è in testa con 2 punti soli in più rispetto alla stagione scorsa, quando però ne aveva 4 di ritardo dall'Inter, che aveva un'altra marcia. La Lazio ha 17 punti più di un anno fa. In 15 giornate ha accumulato, segnala Franco Piantanita con le sue statistiche, la bellezza di 17 punti più di allora. E questo è sinceramente il dato più numericamente più impressionante della giornata, considerando anche che la Lazio non batteva l'Inter da 7 anni, cioè dal dicembre del 2003, e alcune altre considerazioni che poi numericamente vi suggerirò più avanti. Questo erano i numeri, perlomeno quelli di partenza. Poi c'è una suggestione notevole, segnalata stamane con grande evidenza dal Corriere della Sera, che è questa: da quando il Milan è di Berlusconi, cioè dal 1986, Allegri sarebbe al momento il quarto allenatore italiano che fa centro al primo colpo. Ora, il non c'è due senza tre c'è già stato, perché anzi sarebbe il quinto che fa centro al primo colpo, perché al primo colpo hanno vinto Sacchi, Capello, Zaccheroni e Ancelotti, e quindi sono 4. Sarebbe il quinto Allegri a far centro al primo colpo, che non è una cosa da poco, a parte il fatto che anche nel passato Rocco, per esempio, vinse il suo primo campionato da allenatore al Milan nella stagione 61-62. Quindi questa, ripeto, sul piano della suggestione è ha il suo fascino, indubbiamente. Però c'è un dato di fatto, che è questo: l'impresa di questa giornata della quindicesima l'ha fatta la Juventus, a parer mio, perlomeno dopo aver visto la qualità della partita di ieri sera a Catania, in cui per mezz'ora si è visto un Catania molto ma molto bello, molto efficace, molto veloce, molto motivato, che ha fatto correre parecchi pericoli alla Juventus, che però ne è venuta a capo abbastanza tranquillamente, e che non appena ha avuto spazi, o si è creata spazi, che è diverso, e il Catania ha leggermente allentato le maglie difensive, anche con qualche errore di troppo, la Juventus ha colpito in maniera implacabile. Considerando che il campo del Catania era imbattuto da un anno, è una vittoria che vale in maniera particolare. Abbiamo detto i numeri, abbiamo detto la suggestione, abbiamo detto un dato di fatto, potremmo aggiungerci la curiosità, certamente per l'esito di stasera di Napoli-Palermo, perché è indubbio che tre squadre sono ormai abbastanza nettamente in testa: 33 Milan, 30 Lazio e 27 Juventus. Ma il Napoli, vincendo, raggiungerebbe la Juventus, così come vincendo il Palermo arriverebbe a un solo punto dalla Juve, quindi in piena lotta, mentre per il momento mi pare che di Inter e Roma semmai si possa poi riparlarne. Allora, per la precisione, i 4 allenatori, cioè i 3 allenatori che hanno vinto il primo tentativo, sono Sacchi, Capello e Zaccheroni. Carletto Ancelotti vinse a sua volta lo scudetto, ma non al primo colpo, quindi Allegri sarebbe il quarto di questa compagnia negli ultimi 25 anni a centrare questa impresa, e ripeto, sarebbe. Cominciamo a sentire qualche voce, in attesa dei vostri commenti e dei vostri interventi in diretta, qualche voce ricavata per l'appunto da questa giornata. Io direi che il primo dovrebbe essere Hernan Crespo, perché ha segnato il primo è un calcio di rigore, il secondo è un gol magnifico dei suoi, ma in ogni caso ha segnato i gol rispettivamente numero 150 e 151 della sua carriera in Italia. E sempre dalle statistiche che ho sotto mano, mi pare che lo abbiano portato a essere il quarto cannoniere nella classifica di quelli in attività e il 22esimo in assoluto nella classifica degli attaccanti goleador di tutti i tempi in Italia. Crespo. Sarà 151 perché c'è quel problemino con il Milan-Fiorentina, che però vabbè, uno in più né in meno, si fa troppa fatica a farli, quindi mi raccomando, datemela a me, dai. Sono contento perché ci stiamo tirando fuori una situazione che un mese fa era sgradevole per noi, eravamo ultimi in classifica, e quindi stiamo ritrovando un po' di gioco, stiamo ritrovando questa voglia di giocare un bel calcio, e che credo che sia l'arma migliore per risalire. Ma il segreto è avere tanta passione, voglia di mettersi in gioco. Poi sicuramente mi ha fatto veramente bene tornare a Parma. Crespo con la sua doppietta contro l'Udinese, che nel finale avrebbe tranquillamente meritato di pareggiare, ha firmato una delle imprese di giornata. L'altra, particolarmente significativa sul piano della salvezza, l'ha certamente firmata il Bologna, un Bologna che merita, insomma, che ha anche un valore aggiunto in questo momento, cioè quello di dover lottare contro una crisi societaria molto grave. Il fatto di restare unito e compatto, nonostante da mesi i giocatori, non so il tecnico, ma non credo nemmeno lui, non vedano letteralmente un euro, e quindi mi pare che a maggior ragione sia meritoria questa vittoria di Cesena, che tra l'altro, torno alle statistiche di prima, che tra l'altro il Bologna non aveva mai vinto, perché nei derby di Serie A con il Cesena non aveva mai vinto sino ad ora, era la prima volta. Sentiamo a questo proposito il commento di Malesani, in particolare su Di Vaio e su Britos. Marco, penso che sia la seconda giovinezza, io me lo sono ritrovato, io ho avuto la fortuna di averlo sia da giovane che da esperto, adesso veramente è una forza della natura. Io non ho mai visto uno alla sua età correre come corre lui. Al di là del gol, ha fatto una partita dal punto di vista anche difensivo da prendere ad esempio i giovani attaccanti, che magari gli insegnano che non si può tornare, che non ci si può sacrificare, e lui è stato l'esempio. Beh, Britos mi criticavano perché facevo giocare Britos e non Mora. Lui l'ho chiamato in causa ed è stato straordinario. È un giocatore che può migliorare molto e può diventare anche importante e ambire anche a grosse società. E questo era il commento di Malesani. Per effetto in particolare della vittoria del Bologna, mi pare che la classifica sul fondo si sia abbastanza nettamente delineata, e cioè c'è il Bari sempre più sventurato per via di non solo di grandi assenze ma anche di grandi torti, che per esempio ieri Arbitrani, intendo, che ieri ha subito sul campo della Sampdoria, una partita che avrebbe quasi certamente perso comunque, ma insomma c'è modo e modo, no, di essere aiutati a perdere, per l'appunto. Il Bari e due gradini più su Cesena, Lecce e Brescia, e la sensazione oggi è che siano queste quattro squadre qua a dover lottare tra di loro, e una sola si salverebbe. Se poi invece riusciranno a riprendersi, a coinvolgere qualcuno che c'è davanti, in ogni caso non è semplice, perché tra queste tra le tre penultime e il gradino superiore ci sono quattro punti che cominciano, dopo 15 giornate, cominciano in ogni caso a essere significativi e a pesare. È tornato al gol Mutu, non tanto la vittoria della Fiorentina, perché ha la quarta vittoria consecutiva in casa, tutte con il minimo scarto, ma Mutu non segnava dal 17 gennaio, quindi ormai da quasi un anno. Sentiamo il suo commento dopo questo successo. Spero soprattutto di star bene fisicamente, perché non era facile rientrare dopo 9 mesi. Piano piano sta andando tutto bene, quindi sono felice soprattutto per la vittoria, per questi 3 punti importantissimi. Questa vittoria che avevamo bisogno come dell'acqua, come si dice. Forse una delle mie qualità che riesco ad andare avanti anche quando le cose non sono messe tanto bene per me, quindi è una forza che ce l'ho dentro da piccolo, diciamo. E chiuderei questa prima tornata di riassunto della giornata, ripeto, sempre attendendo i vostri interventi all'800 24 00 24, con il commento di Del Neri alla vittoria serale di ieri di Catania. Mi ha fatto un'ottima gara, al di là di quello che si può dire. Adesso non so, Catania ha fatto il massimo di quello che poteva questa sera, quando questa Juventus è stata, secondo me, molto brava a rispettarli, ad aspettarli inizialmente, perché sapeva che erano aggressivi come concetto, veloci, e poi avere la forza anche di avere dei giocatori che nei movimenti fanno anche la differenza. La Juventus deve solamente pensare a fare il suo campionato, a essere a ruota degli altri, a dimostrare di poter combattere con tutti, e a questo punto di vista, in questo momento qui, siamo molto contenti. Possiamo fare dunque il primo intervallo, quello per sentire come va su strade e autostrade. Nel frattempo è uscita la conferma a quello che la Gazzetta dello Sport aveva anticipato sin da ieri, e cioè che i tre finalisti per l'assegnazione del Pallone d'Oro sono tutti e tre effettivamente del Barcellona, e sono Iniesta, Xavi e Messi. Da quest'anno il Pallone d'Oro è, come dire, ristrutturato, nel senso che si è deciso l'accorpamento del Pallone d'Oro, storicamente votato da una giuria di giornalisti, e del FIFA World Player, che era invece che è invece votato dai commissari tecnici FIFA di tutto il mondo. La riunificazione di questo premio sotto il marchio Pallone d'Oro che rimane non è più insomma, un po' prima di Natale, intorno al 15-20 dicembre come era, ma è il 10 gennaio. La proclamazione sarà in quella data e un mese prima circa, e cioè oggi per la precisione, la FIFA e France Football ufficializzano la triade in corsa per questo trofeo. La triade per l'appunto è interamente composta da giocatori del Barça, cioè da Iniesta, Xavi e Messi, per la ovvia delusione degli altri candidati, a cominciare dall'interista Snyder. Il primo ascoltatore di oggi arriva da Vicenza ed è Alberto. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Niente, volevo dire, io sono d'accordo con questa lista dell'UEFA, anzi sono anche contento che non c'è Snyder, anche per il gioco che hanno al Barcellona. Niente, volevo chiedere, lei vedrebbe bene un primo posto pari merito Xavi e Iniesta? Non credo sia possibile, nel senso che già tutti questi premi sanno un po' di tarocco, no? Perlomeno io ci ho sempre creduto in maniera abbastanza relativa. Arrivare a far credere che la somma di tutti i voti di tutta questa giuria di giornalisti europei più di tutti i commissari tecnici del mondo produce una perfetta parità tra Xavi e Iniesta mi sembra che sarebbe abbastanza difficilina da credere. Dopodiché io per primo non saprei scegliere tra Xavi e Iniesta, che secondo me sono effettivamente i due che lo meritano di più. Io voterei Xavi, indipendentemente dal gol decisivo per il mondiale che ha segnato Iniesta. Io voterei per Xavi perché mi sembra che questo professore rappresenti oggi il massimo della tecnica, del saper stare in campo, del saper guidare una squadra, del dettare i tempi, di tutto insomma, oltre a una tecnica assolutamente sopraffina individuale, però non fa poi questa gran differenza. Non trovo giusto che in questa classifica ci sia Messi insomma nei primi tre. Per la Messi credo che resterà per un sacco di anni in questa triade, perché è certamente uno dei migliori giocatori del mondo, ma trovo ci sia un'incoerenza, perché se il parametro di fondo dei giurati è stato il mondiale, e questa è la ragione per cui si è compiuta un'aberrazione iniziale che era quella di lasciar Milito fuori dai primi 20, se il parametro è stato il mondiale, allora non è che Messi al mondiale oggettivamente abbia combinato questo granché, no? Ha giocato una grande prima partita in cui si è divertito a prendere pali e a far fare un figurone al portiere avversario, però da lì in avanti si è un pochino oppure un pochino tanto perso, e quindi se il parametro è il mondiale ci stanno i due del Barça, gli altri due, ma Messi ci sta decisamente meno, e ci stava certamente Snyder, che comunque dopo aver guidato l'Inter alla fase decisiva della Coppa dei Campioni ha guidato in buona parte anche l'Olanda alla finale mondiale. Nicola, chiamato da Torino, buongiorno. Buongiorno, sono Michele, non Nicola. Buongiorno. Sì, vabbè, non importa, comunque sono Michele Torino. Io volevo intervenire in merito, forse un po' seccante, per lo sciopero dei calciatori. Sì. E niente, io ho sentito stamattina, come credo anche lei, le dichiarazioni del presidente Petrucci, che mi hanno lasciato abbastanza perplesso in merito alla situazione, ad esempio, economica del paese, con l'eventuale sciopero dei calciatori. Non so cosa ci possa centrare, ma un mese senza calcio il paese va avanti lo stesso, penso. Ma soprattutto sono rimasto perplesso dalle sue dichiarazioni quando ho sentito dire che è stata l'associazione calciatori a rompere su alcuni punti, se non discutere per niente. Ma io mi risulta che è stata la Lega che non vuole più riconoscere il contratto collettivo. Ora, capisco che è una moda diffusa oggi in questo momento nel paese avere questa posizione, però credo che questa forma di atteggiamento della Lega non porta a niente, perché su certe cose, e trovo una forma, i calciatori, una categoria, perché si parla di categoria, prendere la parte più forte che scende a fare sciopero. Per quanto riguarda, non credo loro stessi, perché con quei soldi che hanno non ne hanno bisogno, ma per quei calciatori di Lega Pro e dilettanti guadagnano 1.000-1.500 euro che da Trento magari possono essere portati a Palermo, ecco. Volevo sapere una sua considerazione. Grazie. Ma la mia considerazione è che quando è che lo sciopero è un'arma superata per il mio, poi in questo caso, ma superata non nel calcio, superata in assoluto nel 2010, e quindi sarebbe tempo di provare a sforzarsi di trovare altre forme e altre formule. Il torto, questo lo dicevano già alcuni anni fa, non può mai essere il torto e la ragione tagliato da un colpo netto, e quindi esserci tutto il torto da una parte e tutta la ragione dall'altra. Indubbiamente da parte della Lega c'è stato un atteggiamento rigido di chiusura, soprattutto da parte dei falchi della Lega guidati da Lotito, che ha portato a questa rottura. C'è indubbiamente anche una intransigenza da parte dell'associazione calciatori che ha portato alla proclamazione di questo, in teoria sciopero, in realtà prestazione differita, perché poi la giornata verrà regolarmente recuperata. Che possa aver ragione Petrucci mi sentirei di escluderlo a priori, ma questo proprio per un ragionamento di partenza di categorie, ma nella fattispecie dire che questa è comunque una sconfitta di, se andrà in porto davvero, è una sconfitta di tutti, mi pare che sia oggettivamente una cosa che si può dire, senza necessariamente attribuire responsabilità in assoluto all'uno o agli altri, e cercando invece di dividerle. Gianluca dalla provincia di Bologna, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno, innanzitutto tantissimi complimenti per la trasmissione, l'ascolto sempre volentieri, eppure sono qui a farle una critica. Sì. C'è un giocatore che si chiama Marco Di Vaio, che da 3 anni credo che sia un esempio sul piano tecnico, perché 20 gol a campionato non sono pochi, specie giocando nel Bologna. Sul piano della correttezza, sul piano del comportamento, sul piano della professionalità è un giocatore, un ragazzo esemplare, eppure non viene preso in considerazione da nessuno se non dalla stampa locale, evidentemente. Dal Bologna, che è quello che conta poi, dal no? Bologna e dai bolognesi. Non viene preso in considerazione nelle trasmissioni televisive, ma vabbè, quelle sono monopolizzate da 4 squadre. Non viene preso in considerazione dai tecnici che si succedono sulla panchina della nazionale, che pure mettono in campo e hanno messo in campo giocatori ormai cotti e decotti, e continuano, perché continuare a proporci Iaquinta, con tutto il rispetto per la sua carriera, ma insomma, e a Mauri, mamma mia. Però mi pare, mi scusi Gianluca, mi pare che Di Vaio in passato le sue chance a tutti i livelli le abbia avute, sia in grandi squadre di club che in nazionale. Evidentemente la sua dimensione era questa, la sua dimensione ideale. A me Di Vaio non sembra una bestemmia, ricorda un po' il Baggio bresciano, e cioè quello che verso fine carriera trova il suo habitat ideale, in cui non dico ci sia una squadra tutta a suo servizio, a Brescia lo era per Baggio, qui no, perché anzi lui ha... Ma insomma, questi giocatori verso fine carriera, nel pieno della maturità e nel pieno della convinzione, e con una squadra, ripeto, se non al loro servizio, comunque ben attrezzata e strutturata per supportarli, riescono a dare il meglio di sé. Baggio ci riuscì per quasi 5 anni, pur con le ricadute dei suoi, purtroppo, infortuni numerosi. Di Vaio gode per sua fortuna di miglior salute, e quindi ha maggior ragione, c'è la speranza per il Bologna che possa continuare a questo livello, e che possa continuare se non altro a salvare il Bologna. Lei ha ragione nel dire che questo giocatore è più determinante per la sua squadra di quanto campioni più celebrati non lo siano per le rispettive. Mi pare che sia l'Ibrahimovic, come minimo l'Ibrahimovic del Bologna. Questo mi sembra un dato oggettivo. Torniamo a qualche voce. E per esempio, vediamo un po' di pescare qua nel campionario che Franco Piantanida mi ha preparato. Ma io andrei a sentire un'altra voce di Ballardini, perché è vero che il Genoa non sta incantando, non sta, non sta viaggiando, vuole far fare però i punti ha cominciato a farli. Sentiamo Ballardini dopo la vittoria di Lecce. A me il Genoa era piaciuto nel gioco anche nel primo tempo, non eravamo stati bravi negli ultimi 30 metri, ma la palla l'abbiamo sempre tenuta noi e bene, però nel primo tempo siamo stati un po' troppo leziosi. Nel secondo tempo invece la squadra non è stata leziosa, voleva recuperare il risultato e questo è il Genoa. Questo è quello che deve fare il Genoa. Non ho alcune notizie che Ranocchia vada via, quindi non so cosa rispondere. Ma rimane, il problema non si pone. E questo era Ballardini. Ancora un ascoltatore. Adriano ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Adriano aveva chiamato da Bergamo, ma al momento buono cadde la linea. E allora torniamo nel repertorio vocale di questo fine settimana e sentiamo Quagliarella, perché di gol se ne è visti convalidare due, ne aveva per la verità anche segnato un terzo ed è stato determinante per questa vittoria della Juventus. Quagliarella. No, peccato che non è stato convalidato, perché comunque ho saputo che il gol era più che buono, quindi c'è rammarico, però l'importante è che poi abbiamo vinto, io ho fatto gol su un campo difficilissimo, è un anno che Catania non perdeva in casa, quindi dà ancora più valore a questa vittoria. Quando arrivi in una grande squadra credo che, vabbè, dimostrare subito le tue qualità, perché non è mai facile, però credo che ne faccia la differenza è la tranquillità, gioco nel mio ruolo, la fiducia della società, dell'allenatore, dei compagni, e questo mi fa giocare con maggiore serenità, e poi quando arriva l'occasione cerco di essere sempre più lucido possibile. Noto en passant, prima di lasciare la linea ai mercati, che si continua a parlare, ma anche per vendere copie di giornali, si continua a parlare di mercato, Juventus, di attaccanti da comprare ad ogni costo per gennaio, pena la sopravvivenza. A me sembra che l'attacco della Juventus funzioni discretamente. Intanto è il miglior attacco d'Italia, no? di questo campionato. Mi sembra che sia che qualunque siano le scelte di Del Neri, grazie anche a questo gioco molto brillante sugli esterni, a queste copie, no? A questa doppia catena di trasmissione che Del Neri ha adottato come marchio sì dai tempi del Chievo, mi sembra che la manovra offensiva sia di eccellente livello, e quindi se proprio la Juventus avrà risorse da investire sul mercato di gennaio, cosa che non è poi così detta dopo l'eliminazione dell'Europa League, che da un lato ha sollevato la squadra da un problema, ma dall'altro non ha certamente giovato alla causa delle casse sociali. L'Europa League non è la Champions League in fatto di proventi, ma qualcosa frutta. A me pare che la Juventus potrebbe anche andare avanti così, soprattutto nel reparto avanzato. Torniamo dopo i mercati. Il parametro sarà anche il mondiale, fa notare un ascoltatore, ma Messi ha segnato qualcosa come 50 gol in 50 partite, grosso modo. Non è che lo si può ignorare, no, ma difatti non si sta dicendo quello. Il problema è un altro, ma io ne farei anche a meno, perché sapete l'idiosincrasia per il pallone d'oro in generale. Poi se mai domani nel corso della rubrica internazionale con Tavelli, oppure poi addirittura a gennaio quando verrà proclamato, però trovo delle incoerenze rispetto ai parametri che vengono dichiarati, perché se il parametro è il mondiale, allora in quel mondiale, sul podio di quel mondiale, Messi non ci può stare. Messi ha giocato, a parte il mondiale, una stagione straordinaria sia nel finale della scorsa che soprattutto all'inizio di questa, e quindi uno come Messi, l'ho già detto prima, ci sta sempre a pieno titolo, no? In un podio in un podio dei primi tre, forse anche dei primi tre di tutti i tempi, tra non molto, ma in un podio attuale senza alcun dubbio. Se il parametro è mondiale, ci sta un tantino meno. Roberto, Roma, buongiorno. Buongiorno a lei, dottore. Dica. Complimenti per la trasmissione e per il garbo con il quale lei la conduce. Uh-huh. Una domanda, dottore, sulla squadra del mio cuore, che è la Lazio. L'anno scorso la Lazio ci ha fatto patire. Poi i cugini andavano molto meglio, quindi è stato un anno d'inferno. Quest'anno siamo partiti molto forte. A lei, che è un giornalista e fine intenditore, la mia domanda è: quanto pensa che possa andare lontano la Lazio? E soprattutto, quanto pensa per influire il fatto che la Lazio non ha impegni infrasettimanali, salvo la Coppa Italia, non partecipando alle Coppe Europee? Questa è una buona ragione, infatti quella che ha detto lei è una buona ragione per pensare che possa effettivamente andare lontano. Ora, secondo me lontano c'è già andata, perché io ricordo gli scetticismi del so, di dopo 5 giornate, dopo 7 giornate, dopo 8, dopo 10, non può durare, eccetera. Ma già è durata fino a 15 e quindi siamo vicini alla fine del girone d'andata. La squadra c'è oggettivamente perché basta vederla. Non è una squadra partita per vincere, questo certamente no. Non è una squadra attrezzata per durare sino in fondo come le altre, però per l'appunto ha quel vantaggio non da poco, che è quello di poter preparare soltanto una partita a settimana e di poter dedicare a quella tutte le sue energie fisiche e mentali. Non è un vantaggio da poco e mi pare che lo stia sfruttando nel modo migliore. Poi sì, volendo si può anche aggiungere che per esempio una rispostina in più ci sarà domenica sera dopo Juventus-Lazio, perché è chiaro che la Juve ha la possibilità di agganciarla al secondo posto, cercherà di non farsela sfuggire, però battere questa Lazio non è certamente una passeggiata. E d'altra parte la Lazio stessa ha la possibilità, sempre che poi si giochi, perché noi stiamo parlando come se questa giornata sabato e domenica andasse in scena, mentre invece al momento in scena non ci va e queste partite si giocano poi mercoledì 19 gennaio. Insomma, stiamo a vedere, però anche continuare a dire, come si è detto in passato, vediamo la Lazio con l'Inter, vediamola con adesso con la Juventus, vediamola, vediamola, l'abbiamo vista 15 giornate, quindi secondo me l'abbiamo vista abbastanza per sapere che insomma non sembra una meteora destinata a cadere da un momento all'altro. Poi il futuro è nel grembo di Sacchi, no? Lorenzo, provincia di Trento, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo chiederle a quando lei e il suo staff prevede una puntata di aggiornamento su Calciopoli e sul processo di Napoli, che sta disfacendo le ridicole accuse mosse contro la Juventus. Sarebbe anche un modo con il quale lei potrebbe riparare al giustizialismo che l'ha contraddistinta 5 anni or sono, certo, quando lei condannò la Juventus. Beh, sai, io avessi questi poteri io di condannare la Juventus, piuttosto che comincerei da altri settori e avessi il potere di condannare, le dirò, non avrei mai cominciato e non comincerei mai dal pallone. Quando per l'appunto questo processo di Napoli, che non mi sembra stia demolendo nulla, mi sembra che quello che si sta demolendo è la credulità della gente che si affida soltanto a quello che esce dai collegi difensivi, no? Che viene fatto filtrare da questo. Quando tutto questo sarà stato demolito, sarà un piacere, ma soprattutto sarà un dovere professionale quello di aggiornare sulle, come dice lei, sulle macerie, non mi ricordo che espressione ha usato. Prima di allora io credo che sia il caso di andarci un tantinello più cauti. Lorenzo, grazie. Andiamo a Roma da Mimmo, buongiorno. Salve Garanzini, buonasera, complimenti per la sua obiettività. Volevo farle tre domande sulla Juventus velocissime. Sì. La prima, cosa pensa di Bonucci? La seconda, a chi Alessandro Del Piero può dare il testimone? E terzo, cosa si può aspettare effettivamente, ci si può aspettare da Del Neri? Ma comincerei sulla seconda, mi dichiaro inadeguato sin da ora, nel senso che non ho la minima idea di chi prenderà il testimone di Del Piero, se e quando. Sulla terza mi sembra che il lavoro di Del Neri sia già eccellente sin da ora, perché comunque questa mi sembra una squadra che ha un'identità che somiglia alle squadre di Del Neri nelle migliori versioni possibili, e quindi il lavoro di Del Neri già sin d'ora ha un senso, abbondantemente proprio direi, perché comunque si vede un'impronta plasmata ben precisa. Bonucci direi superiore alle attese, almeno dal mio punto di vista in generale, ma per esempio anche ieri in particolare, quando io sento dire che nella coppia Bonucci-Chiellini è il leader e Bonucci sta crescendo all'ombra di Chiellini, io ho qualche dubbietto personalmente, perché ho l'impressione che ho l'impressione che non sia male nemmeno giocare a fianco di Bonucci, e che non è detto che il leader sia davvero l'altro. Hassan Hassan è un vecchio cliente, se non sbaglio, che ha chiamato davvero. È vero, da Verona. Buongiorno, Hassan. Ho una buona memoria. Certo. Beh, no, non è che Hassan sia, non è come Giuseppe, con sì, tutto. Sì, ora solo a Verona. Adesso. Io sono tifoso di Chievo prima, innanzitutto, però mi ha colpito una cosa che ha detto Guardiola dopo la vittoria del Real Madrid contro il Barcellona contro il Real Madrid. Sì. E quella frase, secondo me, Moratti doveva imparare da quella frase lì, nel senso, no, è inutile investire per... ha sofferto tanto dall'89 all'altro anno per vincere 3 coppe. Invece di investire sui giovani sta cercando sempre di comprare. Secondo me Milito, Maicon, quando hanno fatto lì Mugoni per andare via, doveva lasciarle andare. Guardiola ha detto, ringrazio tutti gli allenatori del settore giovani. Praticamente quello che ha avuto oggi non è da un anno o due, ma da tanti anni. Secondo me è una squadra fortissima, Barcellona. Su questo direi che non c'è alcun dubbio. Ma vede, Milito, Maicon che dovevano andare via, secondo me, cioè, certamente sì, però son quelle cosette che è più facile dire in autunno che non dire quando stai ritirando i premi, no? di una stagione trionfale, e quando subito dopo, così nel momento dell'euforia, nel momento del, diciamo pure del trionfo, ti disponi a pensare al futuro, già hai dovuto rinunciare all'allenatore che se n'è andato contro la tua volontà. A quel punto mettersi anche a rivoluzionare la squadra, sì, certo, sarebbe stato un segnale di lungimiranza, ma se per caso poi le cose fossero andate male, io credo che le critiche sarebbero state ancora superiori a come non sono oggi. Tanto ci sono situazioni in cui come ti muovi sbagli, e credo che questa fosse una di quelle tipiche situazioni. Avevo in programma di mandare una voce di ieri da ascoltare, che era quella, che è quella di Ventura, che sentiremo più tardi, perché insomma le disavventure che stanno colpendo il Bari davvero sono ai confini del credibile. Però vedo sul display il nome di Domenico dalla provincia di Frosinone, e allora io ho la certezza, no, più che la speranza se non altro, ma spero la certezza che si tratti del nostro amico Pastore. Buongiorno Garanzini. Certo, l'ho sentita la pecora. Ah, grazie Garanzini, grazie per l'ospitalità. No, senta ospitalità, mi dica esattamente dove si trova, si faccia localizzare. Io sono nei monti di Frosinone. Sì. Cioè, sono col mio gregge. Ma a che altitudine è adesso, per esempio? Oggi è una giornataccia, fa freddo, molto freddo. Molto freddo, piovigginoso e freddo. Io sono dovuto uscire uguale con gli animali. Certo. E quindi su che quota siamo? Su che... No, non altissima. Adesso no. Io diciamo la comincio a riascoltare, perché mi sono abbassato. Prima ero in alto, certo. Non ascoltavo con la mia radiolina. Con la sua radiolina portati. Ecco. Grazie per avermi chiamato. Io solo una cosa, Garanzini, io sì. Tutta l'esasperazione che sento intorno, sento la radio, è una cosa pazzesca che non riesco a sopportare. Io lo ripeto all'esasperazione, vorrei che lei, diciamo, lo dicesse in giro che c'è gente che tribola veramente, gente che fa cazzotti nei stadi, nei giocatori, ma gente che prende soldini, ma io che cosa devo dire? Lo dica questo. E vi ringrazio, buon Natale a tutti. Domenico, lasci il numero al centralino, la prego, perché io la prima volta che passo per Frosinone, guardi che la vengo a cercare sul serio, questa è una promessa. Cosa vuole che ci ascolti quella gente? Vuole che dia retta all'appello di un saggio pastore di pecore frusinate? Io mi sento di escluderlo, anche se i destinatari ci sarebbero, e come, per esempio questi 19 tifosi arrestati stamattina, di cui vi darò conto subito dopo gli aggiornamenti per il traffico. Dicevo di 19 ultra arrestati stamane di Pescara e Roma, appartenenti rispettivamente ai Pescara Rangers e Viking Roma, arrestati dalle questure di Pescara, Roma e Milano per aver causato lo scorso 8 agosto incidenti prima e dopo una partita amichevole, Pescara-Roma per l'appunto. Per 18 e 19 arrestati sono stati disposti i domiciliari, e invece un 41enne milanese residente a Milano per l'appunto e noto supporter interista, è stato arrestato e tradotto al carcere di San Vittore. Ho 19 arresti per una partita amichevole dell'8 agosto, ripeto, giusto per non perdere mai di vista che cos'è anche il calcio in Italia. Per fortuna può essere anche altro, perché per esempio stamani il centro coordinamento dei tifosi dell'Udinese ha raccontato come si è svolta la trasferta di ieri a Parma. Ricordo che il Parma ha vinto 2-1 e i friulani scrivono: ci sono state scene di convivialità che in alcune piazze italiane apparirebbero assurde e che invece per la fraternità che condivide noi friulani con i tifosi parmigiani si è tradotto in una giornata splendida tra vecchi amici che amano condividere la passione per la propria squadra del cuore. Chissà che un giorno, scrivono ancora questi tifosi friulani ringraziando i loro colleghi parmigiani, chissà che un giorno tra un tornello, una tessera del tifoso e un biglietto nominativo qualcuno si renda conto che nel tifo esiste un'ancora più importante anima che ha il sacrosanto diritto di vivere senza impedimenti la propria passione, condivido in pieno, a una condizione, che prima però si faccia piazza pulita della gentaglia della notizia precedente. C'è Venturi in attesa, ma c'è anche, per rispettare i tempi tradizionali del programma, l'appuntamento con il ripasso della storia, affidata come sempre a Nicola Filippone. Il giorno è ovviamente oggi 6 dicembre. Sembra ieri. 6 dicembre 1978. Il Milan di Riedholm esce in malo modo dagli ottavi di finale di Coppa UEFA, eliminato dal Manchester City. Dopo aver pareggiato per 2-2 a San Siro, i rossoneri capitolano a Main Road, perdendo per 3-0, un passivo che avrebbe potuto essere più pesante senza alcune prodezze di Albertosi. Da dimenticare l'ultima apparizione nelle coppe europee di Gianni Rivera, sostituito a fine primo tempo con Boldini. Rivera ha disputato complessivamente 74 gare di coppa, segnando 13 gol. Il Milan avrà modo di rifarsi in campionato, conquistando lo scudetto della Stella. Grandi adesioni come sempre per il nostro amico Pastore, per Domenico, il pastore di pecore che di tanto in tanto, ogni qualche mese chiama dalle sue campagne, dalle colline intorno a Frosinone, per esempio, scrivono, insomma lo salutano a distanza e si compiacciono di averlo riascoltato, Valentina da Latina, Francesco Barbieri da Verona, Luciano da Biella, Alessio da Treviso. Si spinge oltre Maurizio Robaldo dicendo: prenotiamo il formaggio di questo amico pastore, mi raccomando. Vabbè. Grazie a Nicola Filippone ovviamente. Torniamo ad ascoltare un frammento domenicale, che è quello del povero, lo dico con molto rispetto, sia ben chiaro, del povero Ventura. Tutto conseguenziale, cioè nel momento che tu vieni a fare una partita su un campo difficile come quello di Genova, ci vieni purtroppo, inutile ripetere sempre le solite cose, senza 8-9 giocatori, in più Raggi durante il riscaldamento non avevamo più difensori, Raggi durante il riscaldamento si blocca la schiena e quindi abbiamo perso anche Raggi, inizi, gol su rigore, tra l'altro mi sembra che becchi prima la gamba poi il braccio, ma comunque non ha importanza. Poi c'è l'espulsione di Rossi perché veniva spintonato lui dal portiere. Sinceramente è un po' dispiacere, l'ho avuto, perché siamo a Genova, nella mia città eccetera, noi non siamo in grado di fare il risultato, non puoi giocare con 5-6 giocatori che erano fino a due mesi fa fuori rosa in C, in B eccetera e giocano adesso in A, quindi bisogna dire grazie al fatto che scendono in campo e ci cercano di mettere tutto quello che hanno. Vediamo se il Bari ce la farà a risollevarsi. Io credo e lo crede anche la società, mi pare, no? Che ce la possa fare, a patto ovviamente di ritrovare nel minor tempo possibile i giocatori che contano, insomma, che sono attualmente infortunati, perché la cifra di gioco il Bari l'aveva, oggettivamente l'aveva. Poi è chiaro che una volta snaturato dai troppi cambi e dai troppi giocatori, come dire, alternativi, che lo stesso Ventura ha ricordato, diventa difficile mantenere quel livello di prestazioni e soprattutto affidarsi, continuare a confermare la qualità di quel copione. Giovanni ha chiamato da Parma, buongiorno. Pronto, buongiorno, grazie. Sarò breve, volevo farle una domanda. Io era dal mondiale che volevo chiamarle. No, era dal mondiale che volevo chiamarla. Non voglio tirare fuori l'impermeabile, volevo dirlo: secondo lei quanto conta, secondo lei, l'allenatore in un in un campionato mondiale, ovviamente in quelle 20 partite del mondiale, e un allenatore in una squadra di club. E Mourinho, come mai? Capisco che lei, se fosse un presidente di una squadra, non prenderebbe mai Mourinho, però come cioè, come ha fatto a vincere essendo inadeguato? Lei? Complicatella, cioè, soprattutto se erano 4 mesi che ce l'aveva in canna, sta domanda diciamo che non si è semplificata nel frattempo, ecco, la metterei come minimo così. Cosa incide, quanto incide? 20 partite di mondiale, al mondiale chi vince ne gioca 7 al massimo, e le 3 sono di qualificazione. Io credo che siano due mestieri diversi, quello di selezionatore, quello di commissario tecnico e quello di allenatore, perché il commissario tecnico deve fare innanzitutto un'opera di selezione e poi deve trovare la maniera di diventare allenatore, ma di diventarlo pro tempore, diventarlo una volta ogni tanto, no? Stante il calendario internazionale, con la pretesa poi di esserlo invece, con la pretesa da parte di tutti, che lo sia invece a tempo pieno durante quel mese di mondiale o di europeo che sia. L'allenatore di club è completamente un altro mestiere. Non ho capito bene l'accenno a Mourinho e ai più bravi. Guardi, le rispondo con la selezione che è appena apparsa sulle agenzie adesso e che riguarda il premio FIFA, e cioè quest'anno, insieme al Pallone d'Oro, ci sarà anche il premio per il miglior allenatore dell'anno, e anche in questo caso, come per il calciatore, la nuova formula prevede un podio, cioè prevede 3 allenatori selezionati sin da ora, il cui vincitore assoluto sarà poi proclamato per l'appunto il 10 gennaio. I 3 in corsa, guarda caso, corrispondono ancora una volta al calcio spagnolo, perché sono Vicente del Bosque, e cioè il CT campione del mondo, Pep Guardiola, e cioè il tecnico del Barcellona, e Mourinho. Ma Mourinho è allenatore spagnolo in questo momento a tutti gli effetti, ma se lì lo deve all'impresa compiuta con l'Inter, perché è per il famoso triplete che è stato selezionato, che è stato votato tra i primi 3 del mondo. Poi il 10 gennaio vedremo a chi toccherà il premio. Claudio da Bergamo mi pare concluda con una SMS, concluda a perfezione tutto l'argomento, sia quello attuale che quello di prima, sostenendo che Domenico andrebbe in ogni caso candidato per il Pastore d'Oro. E credo, caro Claudio da Bergamo, che lei abbia compiuto davvero la sintesi migliore di questo appuntamento. Grazie a Paolo Corleone in regia, a Franco Piantanida in redazione. A domani.